piacere ad organizzare le nostre presentazioni anche qui nella nostra sala grande, dove gli utenti hanno la possibilità di vedere un po' dove ci troviamo, quindi di anche toccare con mano i volumi e dare un'occhiata al nostro patrimonio. Quindi siamo contenti, organizziamo spesso iniziative anche qui nella nostra sala grande, cosa che succederà anche domani, quindi se qualcuno ha voglia di venire alle ore 17 presentiamo il nuovo libro di Giacomo Sartori, che molti di voi conoscono. È venuto già molte volte anche da noi in biblioteca a presentare i suoi libri, quindi vi invito, se siete interessati, domani alle ore 17. Io vi porto naturalmente i saluti della direttrice, la dottoressa Valeria Trevisan. Questa sera era una riunione di servizio, quindi non può essere qui questa sera con noi. Ringrazio chiaramente anche l'autrice di aver accettato questo nostro invito e di essere qua con noi questa sera. Non vi rubo altro tempo, lascio la parola a Paolo, che dirà qualcosa, racconterà la storia della nostra autrice e accompagnerà durante la presentazione di questo libro. Vi ringrazio ancora di essere venuti e vi auguro un buon ascolto e una buona serata. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Allora, buonasera, io mi chiamo Paolo, come ha detto, aggiungo anche il cognome Florio, sono il direttore del mensile di cultura Inside Events and Culture, appunto un mensile di eventi e cultura storico ormai sul panorama bolzanino da 13 anni esistente. Io ho il piacere di presentarvi l'autrice Fabrizia Scordamaglia, che ho avuto di conoscere 2 settimane fa. Fabrizia? Un po' di più, dai. Sì, purtroppo insomma oggi il tempo non è stato clemente, ma è da un mese e mezzo che potremmo dire questa frase, quindi ahimè statisticamente ci poteva anche toccare. Quindi ringrazio voi di essere qui, perché vuol dire, Fabrizia, non prenderlo come un aspetto negativo, ma il fatto che ci siano queste persone qui in questa giornata. Pochi ma buoni, direi. Esatto, pochi ma ottimi, direi io, perché veramente per spostarsi oggi come oggi a sentire parlare di un libro. E con questa giornata di pioggia a quest'ora, secondo me va un applauso a voi che un siete qui. Un merito particolare, certo. Esatto. Cioè, è facile andare a sentire qualcosa in una giornata normale dove si ha tempo e voglia, e meno come dire, meno facile, meno scontato che succeda in giornate come queste, tant'è che appunto dalla sala grande siamo venuti qui e in effetti qui si sta molto meglio, ci stiamo molto più al nostro agio. Allora, io parlerò un po' all'inizio chiaramente, perché devo presentare un po' il tutto, poi chiaramente la protagonista di questo incontro è l'autrice Fabrizia, però ecco, un cappello giornalisticamente parlando ahimè è necessario, quindi dovrò parlare un po'. Intanto Fabrizia, che è una... forse molti non lo sanno che sei bolzanina. Io sono nata a Bolzano, ma ho un cognome che non è proprio bolzanino. Che viene da così? È meridionale, però la mia nonna era austriaca, quindi c'ho un po' di radici tedesche, confuse qua e là. Alla mitta dell'Europa. Un po' una mistura, mia mamma era del lago di Garda, insomma, belle. Ecco, però Bolzania di dove? Perché diciamo, non so se il pubblico come sono di dove? Tutti bolzanini. Ah, io abitavo in via Catinaccio e in via Palermo, erano due vie in cui ho abitato fino a 7 anni, però moltissimi ricordi, moltissimi, tutto praticamente. In via Palermo io abitavo. Prima in via Catinaccio, quando ero piccolissima, e poi in via Palermo, che è una delle vie principali. Io lì era il mio mondo, insomma, mi ricordo veramente moltissime cose, e poi alla fine della prima elementare mi sono spostata a Roma. E lì c'è rimasta fino a oggi. E conoscevo benissimo il tedesco, proprio lo capivo tutto, capito. Però allontanandomi l'ho perso tutto. Non praticando, ovviamente. Fabrizia Scordamaglia, io lo Scordamaglia. Quando ho letto questo libro mi sono venuti spontaneamente, sorgono delle domande. La freccia di Zenone, questo poi vi interrogo sul titolo del libro. Perché voglio vedere, io non lo sapevo, cioè non mi ricordavo francamente, qui posso tranquillamente parlare, io sono insomma, più o meno coetaneo di qualcuno di voi, quindi ci ricordiamo qualche reminiscenza di Zenone, chi è, i stoici, queste cose qui. Ma il palo solo la freccia, francamente, non. Ecco, la domanda è, Fabrizia, e andiamo nel mestiere di autore e di autrice. Questo è il tuo primo romanzo, il tuo primo libro, diciamo. E quindi la domanda classica che si fa in questi casi a chi ha un'età che non è più quella giovanile e decide di prendere la penna in mano e scrivere un qualcosa di importante, non una lettera, visto che poi parleremo anche di lettere. Perché? Perché per la voglia di scrivere. Allora, io ho cominciato scrivendo parecchi articoli sul giornale, mi hanno pubblicato quasi sempre, al 99%, anche un po' ironici, mi hanno messo anche su una rivista chiamata Il Graffio, quando mi sono messa a parlare dell'orso, delle montagne, e piacevano, e ho scoperto anche di saper scrivere, di saper scrivere scrivendo la tesi, però ci ho dovuto lavorare un po'. E quindi c'era questa voglia di fare qualcosa, di lasciare una traccia. E poi sono partita dal presupposto che sono una persona un po' chiusa, non sono così espansiva, fai un po' di fatica anche a capire come sono, com'è il mio intimo. Ho detto, santo cielo, ho delle idee, voglio buttarle su carta per provocare, per avere una reazione, no? Quindi ho scoperto di saper scrivere, perché me l'hanno detto, io ho cercato delle conferme, perché non ero così certa, e mi sono affidata a un poeta di Trento, poco conosciuto perché è un poeta. Però ha scritto 35 pubblicazioni, quindi sono una persona di 80 anni, anche molto qualificata, e lui mi ha detto vai avanti, e io mi sono fidata e ho detto va bene, però la forma del romanzo intero non sono capace di scriverlo, quindi ho cercato una forma breve però con un senso di continuità, come poi insomma E tu sapessi scrivere, questo è già stato assodato dal fatto che i tuoi interventi non so se sono pubblicati sotto forma di editoriali, di lettere o io commenti, lettere eccetera. Del cittadino, però me ne ho pubblicate tante. Però il fatto che le pubblicassero, immagino per intero, vuol dire comunque che c'era un gradimento. Lanciavo dei messaggi forti e me li hanno sempre pubblicati, a volte ricevevo anche le telefonate, come scrivi bene, ma davvero? Quindi una conferma tira l'altra, ho detto va bene, ci provo, tutt'altro faccio un buco nell'acqua, insomma. Ovviamente il libro non l'ho pagato io, è stata la casa editrice che l'ha pubblicato, perché se la casa editrice mi avesse detto ma guarda non ne vale la pena, io avrei rimesso tutto nel cassetto. Volevo che fosse la casa editrice a prendere l'iniziativa, vuol dire che il libro poteva avere fiducia in te. Certo, avevo bisogno di una conferma forte. Allora arriviamo all'altra domanda che si pone chi, chi si accinge a leggere il tuo libro. Tra l'altro ha affrontato subito un discorso, cioè lo affrontiamo subito, Fabrizia, ha detto perché scrivevo bene. Allora, il bello scrivere, la bella scrittura, non è una cosa scontata. Ve lo dico io da giornalista che, oltre che a scrivere, leggo perché devo leggere, ormai più per lavoro che per passione. Io leggevo molto di più quando ero giovane, ovviamente. Con l'età leggo un po' di meno, più selettivo, però comunque leggo tanto, e vi assicuro che il livello medio dell'italiano medio è veramente deprimente, triste in questi ultimi tempi. Ora staremo lì a ora e ora a parlare di social, dei nuovi modi di comunicare, eccetera, e a dire che magari i giovani non sanno scrivere e gli anziani invece magari di più. Non è detto che sia così. Ma io non sono anziano. No, ma non sei anziano. Allora, nessuno è anziano se non nello spirito. Saper scrivere è tutta un'altra questione, non è una questione di età, di anagrafe. Ecco, questo libro è scritto bene. E ve lo dico io, ma non perché sono Umberto Eco di turno, che può dire è scritto bene, lo dico io perché il libro ne ha lette a migliaia, effettivamente c'è un dizionario, un vocabolario, un lessico che anche nei grandi autori, devo dire, di narrativa non si ritrova, ahimè, quasi più. Perché? Per mille motivi, perché si pensa che scrivere in una certa maniera non sia attraente per una determinata fascia di pubblico. e quindi usiamo sempre quei 500 vocali, vocaboli che fanno parte del linguaggio quotidiano, perché noi quelli siamo, 1500 nella seconda fascia e poi ci fermiamo lì. Ecco, qui voi troverete delle parole che e direte, ma questa parola io la conoscevo tanti anni fa, la sentivo, me la dicevano, la scrivevo, adesso non la sento, non la dico, perché? Perché in forma epistolare? Io mi sono studiato un po' della materia, allora io sono un francesista senza voler essere presuntuoso, nel senso che ho fatto tutto un percorso di studio della letteratura francese, e in effetti il romanzo epistolare fu molto diffuso in Francia nel Settecento, e se vedi solo alcune, da Montesquieu alle relazioni pericolose di Laclos e altri autori del genere epistolare che andò molto di moda nel Settecento. Sempre in quel secolo, nel XVIII secolo, ma a fine XVIII secolo, a fine 1700, invece risalgono gli altri due classici del romanzo epistolare, ovvero Il dolore del giovane Werther, quindi un testo tedesco, e Le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Fosco. Sono entrambi, lo dico non perché lo so, ma perché non lo sono annotato, 774 Werther, 798 Ugo Fosco. Quindi siamo già all'alba dell'Ottocento. Quando poi arriveranno qui, fra i due libri più famosi, che io francamente non ricordavo che fossero sotto questo stile, il Frankenstein e il Dracula. Sono due libri, romanzi molto famosi, però scritti sotto forma di romanzi epistolari. Venendo ai giorni nostri, perché io ho chiesto a Fabrizia, lei non si ricorda, ma se qualcuno di voi si ricorda il nome di un romanzo italiano recente del Novecento in forma epistolare, io ne sarei grato. Vi avrei interrogato, ve l'ho detto, però siete veramente giustificati, perché in effetti che io sappia non ce ne sono, o almeno di famosi, magari qualcuno l'ha scritto, però ahimè, ai lui, anzi, o a lei, non è diventato famoso. Vi verrà in mente La lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci, che però una lettera è, quindi non è uno scambio di epistole come il classico, no? E poi ho ritrovato questo, io che sono un fan di Camilleri, perché lui, come sapete, oltre a tutti i romanzi della serie Montalbano, ma ha scritto tantissimi romanzi in vernacolo, in siciliano, ma anche in italiano, e c'è questa bellissima Processione del telefono, vi consiglio la lettura, che però non è romanzata, è uno scambio di fax, cablogrammi, comunicazioni tra polizia, ente amministrativo, eccetera. Quindi sì, si scambiano delle comunicazioni, ma non sono le classiche lettere. Quindi di fatto, Fabrizia, tu hai scritto uno dei pochissimi, sono l'unico romanzo epistolare del 2000. Sono stata coraggiosa, diciamo che mi hanno detto così, coraggiosa, perché ecco, ci leggo un altro epistolare. Allora, io dico anche che ho letto le lettere di Hannah Arendt, di Heidegger, sì. No? Che io l'ho conosciuta a Mare laureandomi in filosofia, e la filosofia mi ha aperto un mondo, e insomma qui c'è anche un po' di filosofia, no? Perché comincia a ragionare in un certo modo, c'è anche citata perché mi piace moltissimo, e ho letto le loro lettere, mi sono fatta anche l'idea di come scrive un uomo, vabbè lui era un certo tipo di uomo, però perché io ho scritto come un uomo, come una donna, poi questo insomma no, ne parleremo magari dopo, però mi sono un po', come dire, letta queste lettere che erano un po' di filosofia e un po' di amore denso, profondo, no? Un po' diverso. Quando io l'ho portata alla libreria Arcadia, perché ho regalato dei libri alle librerie dicendo insomma se volete sono qua, Orca mi ha detto è ben difficile un romanzo epistolare, dico lei lo legga, dopo mi dica la sua, deve ancora leggerlo dopo che gliel'ho regalato. C'è l'Arcadia a Rovereto, fa 2000 presentazioni, e dico ascolta io sono qua di Rovereto, cioè apritelo il mio libro, no? Perché insomma. Però a parte questo, lei ha sottolineato, ha fatto questa piccola sottolineatura, come dire, sembra già un fallimento, perché insomma è chi giù sulla... E invece sembra che piaccia, insomma, questo libro, nel senso che io ho dei riscontri molto forti, mi fido perché sono sempre un po' titubante, no? Su dire, boh, non ci credo, una finta, siamo amici, però mi sembra invece che il riscontro ci sia, è forte, questo ti fa veramente molto piacere. Comunque grazie del complimento, me lo prendo come oro, le cose che hai detto... sulla mia modalità di scrittura, perché proprio mi danno molto coraggio. No, ma il complimento, sono sincero, anche perché io te lo dissi quando ci incontrammo, io in genere, che a me personalmente non mi appassiona adesso, perché come ho detto prima, ognuno si forma nel corso della vita delle determinate preferenze e poi se le fossilizza, e non è bello, però è così, ahimè. Uno a un certo punto comincia a leggere solo determinate cose, mentre invece in età diverse un romanzo epistolare come questo, sia come forma sia come contenuti, magari mi avrebbe trovato di più come animo, come predisposizione alla... Però ripeto, una cosa è amare un genere, una cosa è dire questo libro è bello, sono due cose separate. Un film può piacere, ma può anche non essere ben fatto, come può non piacere ma essere un bel film, perché oggettivamente è un bel film. Quindi questo è il quadro che io ho vissuto leggendo due volte, una prima volta prima di incontrare Fabrizio e una seconda volta per entrare, perché questo non è un libro facile, proprio perché è sostanzioso, proprio perché per capire la singola parola bisogna lavorarci. Non è quei libri che tu te lo leggi in una sera, perché il linguaggio e l'argomento è di quelli che è come bere giù un bicchiere d'acqua. No, qui è un distillato di scrittura, in cui ogni pagina ci sarebbe, perché a tempo e voglia, fermarsi lì e ragionare, come si faceva una volta sui classici. O sentire. O sentire, però sentire non si sente fuggevolmente, sentire comunque ci deve soffermare. Per questo sulla scrittura anche ci arriviamo. Allora, Fabrizio Scordamaglia, oltre a fare questo azzardo, no, di scegliere questa forma di romanzo epistolare e quindi rinunciare a quello che oggi va di moda, che può essere la fiction, il giallo, il criminale, che ormai tutti scrivono, no? Se non c'è l'action, un action movimento non c'è, per non parlare di alcuni argomenti, se non c'è la violenza piuttosto che argomenti osé, eccetera. No, ripeto, ci vuole coraggio per scrivere oggi in questa maniera di queste cose. E oltre ad essere l'unica, la prima, credo, nel millennio, almeno dalle nostre parti, che io sappia, però noi immaginiamo, noi tutti ci ricordiamo questi romanzi epistolari che leggevamo anni fa, appunto scambio di epistole, scambio di lettere, lettere cartacee. Qui non parliamo di lettere cartacee, perché i tempi sono cambiati. Quindi qui i due protagonisti non si scambiano lettere, anche perché con le poste di oggi... cioè, chissà quanto durerebbe questo... Andare quel libro, ci ho messo 20 giorni, dopo 20 giorni è arrivato, cioè, dall'ho letto. Quindi sarebbe buffo immaginare oggi con le poste, aspettare il postino. Ecco, una volta c'era il batticuore quando veniva il postino, adesso lo maledici il postino. Ecco, loro scambiano mail, quindi anche, secondo me, il primo romanzo in cui le epistole sono sotto forma di posta elettronica. Quindi l'adeguamento ai tempi. Adesso io vi faccio una digressione, ti ripeto, una cosa mi è venuta in mente leggendo il tuo libro. Voi vi ricordate Memore Nigi, lo conoscete tutti. Innamorarsi a Milano, la conoscete la canzone? Sì. Ecco, fra di noi possiamo parlare, insomma, di questa canzone. Qual era il bello di questa canzone? Cos'è che diceva? Sapessi com'è strano innamorarsi a Milano. Cosa voleva dire? È facile innamorarsi a Parigi, a Venezia, no? Sul mare, nei posti belli. Voglio vederti a Milano, traffico, smog, eccetera. Però il concetto è anche a Milano può nascere l'amore, anche se il contesto non è proprio romantico. Quindi se noi ci immaginiamo gli amanti che scambiano lettere e attendono con trepidazione, qui invece siamo già evoluti, quindi ci innamoriamo ancora oggi con la posta elettronica, magari i giovani ragazzi lo fanno col WhatsApp. Sì, tutte parole e che non si capisce. Però anche quello, di fatto probabilmente è così, io non so, i vostri figli, ancora non sono in età da amori giovanili. Ormai i nostri nipoti. E voi avete nipoti. Non so come faranno adesso, cosa aspettano, se aspettano il rumore no, del messaggio, per avere il tuffo al cuore, perché quello comunque ci sarà ancora. Ecco, questo mi ha ispirato, mi ha tirato fuori questo. Dopodiché veniamo alla domanda: perché la freccia di Zenone? Allora, Zenone è un filosofo presocratico, un filosofo dell'assurdo, quindi lui ragionava per paradossi, cose assolutamente assurde, e lui sosteneva che se fai scoccare una freccia non arriva mai al centro, perché l'istante in cui è composto il tempo corrisponde alla lunghezza della freccia, quindi la freccia è sempre ferma. È ovviamente un paradosso, cioè è un ragionamento per assurdo. E questo dà l'idea dell'amore, perché io in questo libro, spedisco direttamente il lettore. Non è facile, perché il paradosso non è facile. Esatto, spedisco il lettore direttamente all'essenza dell'amore tra queste due persone. Tanto che arriva, cioè quell'amore che toglie il fiato, tanto che arrivano a dirsi, è talmente naturale amarsi che viene voglia di disperare, perché non possiamo neanche gridarlo alla luce del sole. Sono piccoli momenti, immobili, eterni, per cui uno apre anche il libro a caso, legge una lettera e dice, va bene, c'è tutto qui dentro, no? Non importa sapere cosa c'era prima, cosa c'era dopo. Sono istanti immobili che hanno un'idea di eternità, che era quello che volevo dare di questo amore, che l'amore così resta, che finisca, che non finisca. È un amore totale, che forse incontri una volta, forse non li incontri mai, ma che di fatto resta lì. E queste sono pillole di eternità che volevo rendere immobili come la freccia di Zenone. Non anche se c'è una cronologia del libro. Certo, perché l'amore è vissuto comunque, no? C'è comunque una cronologia, insomma, una stazione temporale con la data delle lettere, come appunto usava una volta, ma ancora oggi. Magari non scriviamo la data, lo scrive il computer direttamente la data. Però qui c'è una grossa dicotomia tra tempo e spazio, quindi tra reale e pensato. La realtà concreta di queste due persone che si amano, perché sono due persone che si amano concretamente, ma non possono dirlo perché sono ovviamente già impegnate, e dentro questa dicotomia si svolge tutta la loro vita, che loro possono raccontarsi con le parole, anche se si sono incontrati per amarsi, anche se ci sono stati momenti in cui si sono visti, perché si sono visti tanto, ma la parola resta, cioè il senso della parola è fortissimo. E loro possono amarsi così, ma non è una parola che ti dà un'idea di un amore ideale, evanescente. No, è un amore molto concreto, tanto vero che lui dice ti amo talmente tanto da amare le tue scelte passate e che non ci permettono di poterci amare adesso. Quindi è veramente molto concreto. Io non dico come finirà il libro, sottolineare che è una scelta che è dettata proprio dalla grandezza dell'amore, no? Perché oggi le coppie si sposano e si dividono in pochissimo tempo. E qui invece si fa una scelta molto più forte, che non è una scelta egoistica, boh, siccome noi ci amiamo, molen tu. C'è una scelta forte che è commisurata alla grandezza di questo amore. La dicotomia tra spazio e tempo sta nel fatto che è un po' sperimentale, no? Conosci Mario Vaccagliosa, te ne avevo parlato, sì. Anche che è questo che parte passa dal io narrante, la prima persona, la terza persona, anche dentro una pagina, poi dici dove sono, cioè di cosa stiamo parlando, no? Poi ti abitui, è una modalità di scrittura favolosa. E qua ci sono tre tempi: quello presente della donna, è una vecchia donna di 90 anni che decide di rileggersi queste lettere, viene travolta da questa emozione così forte, così presente, nonostante sia una vecchia emozione, si lascia proprio, infradiciare, bagnare, no? Si lascia ingravidare, e che è all'inizio, a metà del libro e alla fine. Lei fa una pausa e dice, va bene, mi fermo perché sono piena di questa cosa qua, e poi chiude il libro. Questo è il tempo presente, vuoi arrivarci dopo? Ci arriviamo man mano quando parliamo. Allora ci entriamo nel libro, se non anticipiamo troppo. Vuoi dirmelo subito? Non c'è problema. Allora, prima di entrare, perché poi leggiamo dei brani del libro, ovviamente. Però una curiosità, forse te l'avevo già chiesto, ma non mi ricordo, comunque è giusto che lo sappiano anche i nostri spettatori. Jacopo e Lisa, c'è un motivo per cui si chiamano? No, perché leggendo Jacopo Ortis, chiaramente uno... È un così No, il mio poeta, che ha portato a chiamarlo Jacopo. Il poeta che mi ha ispirato è un poeta che è considerato un po' un neopirandelliano, quello che mi ha fatto un po' da editor. Mi ha detto: gioca sulla parola, sui nomi. Ho detto: sì, ma che nomi? Ho detto: cioè, non è che cerca nomi che si usano poco. Ci provo, ho detto, quello che mi viene di pancia. E poi lui li ha letti e non mi ha detto niente. Quindi mi sembravano nomi pochi usati, carini. Quindi non c'è una ragione particolare. Non c'è una ragione particolare, mi sembrava che suonassero meglio. Anche perché i nomi comunque sono citati pochissimo nel primo libro, perché loro tuo, eccetera. Esatto. Ad ogni fine di la lettera si chiude sempre con un tuo, tua. Tranne una volta, questo lo devo chiedere. Come facevano i filosofi, no? Tua. Tranne una volta, pagina 65, vediamo se è vero, adesso vado a verificare. Ecco, in una lettera, credo che sia anche l'unica volta, in cui una lettera non si chiude con tua o tuo, ma si chiude con Lara. Sì, cioè, non c'è nessun... era una roba di pancia, secondo me, in quel caso lei doveva firmarsi. Non c'è un motivo per cui... No, lei doveva firmarsi e l'ho lasciata andare, ma non mi sembrava proprio l'unica. È l'unica... Cioè, credo proprio di sì, mi è colpito perché appunto le altre... Vabbè. No, vabbè, ma è proprio un caso, nel senso non che... Non è quello che conta. Forse era un incisivo, insomma, no? Ma niente di che. Allora, tu hai anticipato un po' la struttura del libro, che in effetti l'apertura è quella classica, i romanzi epistolari, solo c'era sempre qualcuno, no, normalmente un anziano, che ritrovava da qualche parte, in qualche soffitta, in uno scrigno del tesoro, ritrovare... Dopo magari puoi leggere la lettere. Delle lettere, ecco, in questo caso appunto è questa signora, non so, ho detto 90 anni, non è scritto 90 si capisce, anni, è un'anziana, no, una donna molto molto una anziana. Signora. Sì. Io vi leggo questo incipit. Se ne stava accanto al fuoco, un po' assonnata, con lo sguardo mescolato ai colori di fine autunno. La vecchia signora dai lunghi pensieri era lì, raccolta in quell'inclinazione del viso, e con le mani annodate a quel fascio di lettere. In quel vecchio libro, forse ormai perduto, si accomodò, assaporando di ogni parola scritta con rinnovato stupore l'aroma denso con cui scelsero di raccontarsi. E già qui, insomma, c'è, già si intuisce quello che è non solo la storia, ma anche il tipo, lo stile narrativo del raccontarsi, posso dire una cosa? Prego. Raccontarsi perché attraverso la narrazione che poi si fa nelle lettere, loro tu costruisci l'identità dei due personaggi. Cioè, io volevo anche questo, no? Che attraverso questa narrazione fatta sul racconto di come loro si incontravano e sulle lettere dove loro parlano, no? E definisci anche proprio le persone, sì. Anche se io a un certo punto descrivo com'era lei, descrivo com'era lui, insomma, no? Però sì, la signora, costruiscono la attraverso signora. La narrazione la loro identità, proprio la costruiscono. Ecco perché parlo di narrazione. Mm-hmm. E subito dopo, un paio di pagine dopo, nella lettera di lui, perché si firma tuo, qui capiamo che effettivamente non è più, non stiamo assistendo a uno scambio di lettere come siamo abituati a pensare, ma lui dice: quando ho aperto la posta volevo solo augurarti il buongiorno, ma non ha senso dirti qualcosa che non abbia il profumo della nostra intimità. Ecco, ho aperto la posta, si tende la posta elettronica, perché scarica la posta e poi più avanti verrà proprio citata la parola mail, quindi noi capiamo anche perché lei, la protagonista, lavora in un ufficio. Non sa bene che cosa faccio. No, è poco importante il ruolo che però hanno. Però comunque ha un lavoro... Certo, è difficile non avere un computer oggi, no? In ufficio. Sì, ma a 90 anni, se lei scriveva queste lettere quando... Adesso ha 90 anni. Sì. Ma se le scriveva 40 anni, 40 anni fa, non era così sì, logico. Sì, allora, questa domanda qua l'ho fatta anche al mio poeta. Mi ha detto, l'essenza del libro, cioè quando uno scrive il libro non deve concretizzare il tempo, è la cosa meno importante, assolutamente meno importante, perché ho detto sì, però io, lei ha 90 anni, ho come dire deciso che le lettere sono nel 2009, perché le lettere sono del 2009, quindi lei è molto più avanti, ok, perché queste email sono state mandate nel 2009, io non ho detto quando è nata lei, in realtà è veramente poco importante, sì, perché quello che è importante sì, è un'osservazione giusta che comunque mi aspettavo che mi ha fatto anche qualcun altro, in realtà entri e non ti importa, cioè esatto. È proprio l'idea del libro, l'essenza che il libro trasporta, al di là della data, che io non volevo mettere, però lui mi ha detto cala in un contesto storico perché sennò sembrano evanescenti, sono stile. No, ma è vero, è giusto notare queste, queste sì, idee, sono no? D'accordo. Ma anche un'altra cosa, ma che si nota, ma come dice Fabrizia, non è il caso estraneo di soffermarsi perché non è un'analisi logica del, del testo e neanche dei suoi contenuti, perché questa signora anziana parla più di una volta di questo fascio di lettere, mentre noi chiaramente parliamo di lettere elettroniche. Ora, magari se le stampate, se le stampate sarebbe su carta, no, non avevo pensato a questo, a me piace pensare che sia un fascio di lettere vero, però la, la storia dice un'altra cosa, ma non ha importanza. Esatto. No, non ha importanza trovare queste, come dire, anche nei grandi... Possono essere, ma non è questo, perché ne ho proprio parlato anche con questa persona che mi ha aiutato a scrivere il libro, mi ha detto, vai oltre, le persone cioè, che riescono a entrarci, vanno oltre, cioè è proprio una cosa che ha poca importanza, no? Perché mi hanno messa, io ho detto, oddio, e mi ha detto, no, non, te lo dico io che sono abituata a scrivere anche in un certo modo. Comunque, però, bravo chi se ne accorge, vuol dire che c'è attenzione ai contenuti, però ecco, non è voluto, ma non è neanche, va bene lasciarlo anche, no? Va bene, se si vuole dare questa, questa differenza di situazione, perché la vecchietta con la posta elettronica francamente non fa un bel effetto, con un fascio di email stampate, magari su carta riciclata, non è molto romantico. Invece un fascio di lettere va bene, ma come se 40 anni fa, va bene, andiamo oltre, andiamo al succo che è questa storia. Però questa signora ha 90 anni e le lettere sono del 2009, quindi la signora sarà nel 2040, non so, capito? Sì, siamo già ma in realtà, cioè, questo ragionamento, una volta che uno legge il libro, non gliele proprio può fregare di niente, cioè dentro una cosa che sembra senza tempo in realtà, il tempo c'è, perché di fatto è una storia vissuta, però chi lo legge lo perde il tempo, capito? Che era quello che volevo provare. Sì, dopo magari all'inizio effettivamente uno guarda, cioè fa caso alle date che sono riportate nel, nel libro, dopo un po' le dimentichi perché non ha un senso. Sì, esatto. Anche quando mi ha risposto, perché insomma, ecco, lì vuol dire bloccarsi su qualcosa che non è fondamentale. No, perché poi questi, siccome è un amore, cioè, come io dico più di una volta, c'è una totale libera dipendenza, che era meraviglioso questo concetto secondo me, loro si concedevano anche dei silenzi, che non facevano paura, perché erano silenzi molto pieni, per cui si prendono quello spazio che si vede anche nelle lettere, no? Senza il timore, oddio dove è finito, oddio perché non mi scrivi, ma uno spazio diverso dal WhatsApp, cane, ho scritto che non risponde. C'hai le due tacche ma non mi hai ancora risposto, perché a questo punto siamo arrivati. C'hai le due tacche blu, quindi vuol dire l'ha letto ma non mi hai ancora risposto. Perché? Non mi vuoi bene. Allora, andiamo alla bella scrittura, perché vi voglio leggere, non ho insomma una voce impostata, però vabbè, vi accontenterete di questo, però lo leggerete voi, dentro di voi sicuramente sarà più bella la resa. Cioè questa, ecco, gioca molto sulle metafore Fabrizio, quindi se vi lasciate andare con la mente alle sue metafore vi accorgerete che è molto bello, molto, sono azzeccate, non forzate, ma oserei dire spontanee, pur se ovviamente c'è la ricerca, perché il libro è curato, si vede che è curato, che è letto e riletto, però si vede anche che c'è molta fluidità, quindi molta spontaneità, molta naturalezza, anche se può sembrare ricercatezza alle volte. Posso dire una cosa? Io dico che lo nego, anzi lo fermo. Io sono dislessica e io considero che la dislessia sia una virtù a un certo punto. Io ragiono per immagini e per immagini scrivo, quindi do un'idea che deve essere molto evocativa, cioè quello che voglio è creare la stessa immagine, creare la stessa idea, quindi non riesco a scrivere, come dire, c'era una volta, eccetera, eccetera, scrivo come penso e penso per immagini. E questo è il risultato, perché non riuscirei assolutamente. La ricerca è limitata nel non scrivere strafalcioni, ma l'idea è quella che viene fuori l'immagine tradotta in parole. E è l'unico modo per esprimerla, insomma. Questo è lui che parla, Jacopo. Qualcuno mi ha detto che sono aria, che non si può tenermi a terra e non si può imprigionarmi in cose da fare. ma con te mi lascio andare, torno ad essere aria, puoi respirarmi e posso essere dentro di te. E non ho paura di consumarmi nei tuoi respiri perché in te divento vita. Allora, modo di dire, sei come l'aria, cioè sei evanescente, svanisci, non ci sei, non sei concreto, sei aria. Ma sei anche indispensabile. Anche. Quindi sei qualcosa che non c'è, che di cui non si può fidare, ma qualcosa che non si può afferrare. E invece no, qui si capovolge il concetto dell'aria. Qui dice, siccome sono aria, tu mi puoi aspirare, quindi puoi prendermi, è il contrario. Non sono io che essendo aria scappo, ma sono io che essendo aria ti entro dentro. E questo è, insomma, non lo devi dire tu, lo dico io, è bellissimo questo. No, se poi lo dici l'uomo è ancora più bello. Ce ne vuole per ecco, arrivare a questo, se vogliamo, un altro paradosso. Però non è un paradosso perché in realtà la tartaruga e Achille, sì, è un paradosso. Facciamo fatica a capire quale c'è zero. Questo qui, infatti, riflettendoci nemmeno tanto, insomma, leggendo, effettivamente c'è, è reale questo duplice modo di vedere la stessa cosa, l'essere aria, quindi l'essere non concreto ma evanescente. Ancora qualche bella frase, una frase molto lei o lui? Corta. Questa è lei. Questa mattina la voglia di silenzio ha un diverso colore. La voglia di silenzio ha un diverso colore. Questa è la dislessia di cui parlavo. No, io ragiono tanto. Questa è un'immagine, sì, un tableau. Uno si fa l'idea che arriva. Perché parliamo tutti di vocaboli astratti, stiamo parlando di voglia, di silenzio. No? Ha un diverso colore, quindi a dare un colore a una voglia e al silenzio che di per sé non ha. Questo è quello che io chiamo la scrittura creativa spontanea, cioè l'arte, il tocco artistico messo su carta. Questo è sempre lei. Come diceva Fabrizia, perché lei, vabbè, qui abbiamo visto finora alcune figure, alcune immagini alte, se vogliamo, molto, molto mentali. Però lei è capace di dire, ho guardato tutto, come eri pettinato, i vestiti che indossavi, la scritta sulla maglietta, quindi un uomo in carne e ossa, le persone in carne e ossa. E ho respirato ancora la tua essenza forte e la tua struttura, fra virgolette, mai curva ed arcuata, ma tesa. E senza ostacoli, consapevole ancora una volta, che non sei ai margini di un'apparenza strana, ma vita piena e distillata. Ecco di qui, questo è il mio posto. Vita piena e distillata. Piena, questa è un'immagine ben precisa di quello che lei sente e ha, di lui. Allora, l'amore è amore per l'imperfezione, questo libro viene fuori dappertutto, secondo me. Perché, allora, io mi è capitato di guardare la televisione e ascoltare, non so se te ne avevo parlato, questo psicanalista lacaniano, non so se qualcuno lo conosce, si chiama Recalcati, no. Che è un psicanalista. No, l'ho ascoltato, ho zippato, ho detto, ma chi è questo qua? Ho detto, oh, che è uno che parla dell'amore, cosa vuoi dire dell'amore? Non va spiegato. Poi ho detto, boh, torno indietro. Anche perché avevo sentito qualcosa che mi ricordava qualcuno, ho detto, ma no, sta parlando del mio libro, e dico, ma l'ha copiato? Com'è che dice queste cose? E ho detto, aspetta che lo ascolto. Porco, le scrivo un'email. Ho detto, caro professore! E gli ho detto le stesse cose, non volevo ascoltare, cioè poi mi sognava quando ero familiare e io ho scritto un libro e mi sembrava che lei stesse leggendo il mio. Posso farle omaggio? Guardi, io sono super impegnato, assolutamente no. Ho detto, ma ho detto, fa lo stesso, me lo tengo, peggio per te. Però ho detto, orco cane, e gli ho avuto un altro rimando. E lui diceva, e mi ha un po' fatto, diceva che gli amori che durano sono quelli che si legano all'imperfezione, perché gli amori che bruciano, quelli, come dire, ideali, sono quelli che bruciano, finiscono, sono quelli veloci, un fiat. E lui diceva, perché poi ovviamente ha fatto la domanda, poi l'ha piantata lì, qualcuno gli ha detto, ascolta, adesso che la domanda l'hai fatta, dacci anche la risposta, facci aspettare una settimana di trasmissione. Lui ha detto, quindi l'amore l'amore fondo, profondo, è quello che si lega all'imperfezione, mm-hmm. al difetto sostanzialmente. Qui c'è un grandissimo amore per l'imperfezione. L'amore eterno non deve bruciare, perché se brucia non è eterno, ok? Ma allora, cioè, un amore forte, come fa a non bruciare? Come fai a mantenere, come dire, un amore forte che brucia senza farlo morire? E lui, come il sole. E lui, è una domanda difficile, perché uno dice, l'amore brucia subito dopo, basta, no? In realtà lui ha detto, è un pensiero quotidiano, un rinnovo quotidiano. È come ricominciare, Anare parlava di un cominciamento, no? Ogni volta che nasciamo si ricomincia, c'è un cominciamento, qualcuno deve dire qualcosa. È un cominciare dall'inizio. È un ricominciare dall'inizio. E loro sembrano che in ogni momento, in ogni lettera, perché è durato più di un anno questa cosa qui, no? Siano come sempre lì, come all'inizio, no? Se rinnovassero una cosa in cui ha sempre creduto, ci sono sbattuti dentro, insomma, in questa cosa qua, senza poter fare niente per evitarlo, sapendo già come, tra l'altro, come poteva andare a finire, insomma. La sensazione, infatti, è vero, la sensazione è, in qualsiasi punto del libro ci si imbatta, che è una storia che sta per iniziare, quindi c'è ancora questa, quella che si intende passione iniziale, che poi in realtà non lo è, perché non è iniziale ma è continua. Ma c'è anche la paura che finisca, perché inevitabilmente, quando si parla di una storia d'amore, ci si chiede: ma come finisce? Quando finisce e perché finisce? Chiaramente noi non saremo qui a dirvi se finisce, come finisce, perché finisce, perché il libro ve lo leggete. E non è che detto che finisca, tra l'altro, ma lo vedrete solo leggendo, lo scoprirete. No, io non dico assolutamente niente. Volevo aggiungere una cosa, mi sono dimenticata ascoltandoti, cosa cavolo stavo. Non me lo ricordo più. Vabbè, mi ascolto. Ti verrà in mente dopo. Io invece leggo un altro, qualche altro appunto, ma sono nelle prime pagine, ripeto, perché poi non voglio entrare nel. Ecco, no, questa è un'altra figura. Sempre lei che scrive. Sì, la parte femminile scrive meglio di quella maschile, devo dire. È vero, scrivo molto e molto dico, usando parole che cadono dalla bocca come fragole da un cestino. Però questo, vedi che è virgolettato. No, questa è virgolettata. È virgolettato, scusa un attimo, vedi che non è mia questa frase. È strisciato. È strisciato? Cioè, è messo di traverso. In corsivo, intendi? In corsivo? No. Sì, tra virgolette, a che è messo tra virgolette. 38, no? Ah, perché questa frase è una frase riportata che aveva. Non so se avete visto un film di Sandra Dee. Chi è che ha visto i film di Sandra Dee? Che era una vecchia attrice. E lei aveva, come dire, fatto questo film dove che viveva sul barcone con la nonna. Nessuno l'ha mai visto. No. Con una vecchia signora che era una donna, una ragazza di campagna, e si scontra con la mentalità della città e parlava in modo così colorito, no? E io avevo chiesto che venisse messo in virgolette, in corsivo. No, e ma invece, no, però insomma mi piace dirlo che la frase non è mia, era talmente bella che ho detto la metto. Okay. Cioè questa frase Volker Francescini è copiata? No, sì, io infatti avevo detto di metterla tra virgolette. No, perché tutte le cose vabbè. Non se ne ha accorto nessuno, non diciamolo. Io le ho messe tutte in virgolettate. È una citazione. È una citazione, tutte le citazioni io le ho messo tra virgolette o non ho fatto. Ma mi sa che hai dimenticato qualcosa, forse non l'hai vista, però vabbè. È bella comunque. No, è una frase bellissima che mi sembrava di. Ma solo questa frase, solo questa figura? Quella figura non. Parole che cadono dalla bocca come fai con la. Esatto, era quella che io avevo detto, mi raccomando, perché questa non è mia. Si vede che allora è sfuggita, però io sono anche massa onesta. Ti arriverà la denuncia per plagio, è la cosa più. Ti possa capitare, cerca un avvocato. No, dai. Ma soprattutto, ecco, questa è un'altra vera, non l'abbiamo scoperto, che la Fabrizia è stata onesta ad ammetterlo, comunque è un'altra. In ogni caso è stata brava a metterla lì, a sceglierla comunque come esempio. Un'altra, e qui finisco con le belle citazioni, non perché non ce ne siano altre, ma perché non voglio togliervi il gusto di leggerle dal vivo. E questo invece è un brano tratto da un intervento di questa signora, perché la signora parla all'inizio, durante, un paio di volte durante, poi alla fine durante, quando prende la pausa, del romanzo. con il filo stupore in equilibrio sul filo di quei suoni ancora così impetuosi, la vecchia signora uscì in giardino, dove mischiò le sue lacrime con quelle della pioggia. Madida di pioggia, poi inabissò il viso in ciò che restava delle lettere e con il corpo proteso al tepore del fuoco, consegnò al mattino incipiente il suono delle ultime parole. Allora, questa non è la fine, potrebbe sembrare una fine del libro, ma non è così. Ecco, questa vorrei chiederti un ulteriore approfondimento. Consegnò al mattino incipiente il suono delle ultime parole. Cosa volevi chiedermi? Ma forse l'ultima. Allora, tu hai lasciato in mezzo tutta la parte dove lei dice praticamente che perché è notte e lei è devastata proprio dal ricordo e sente proprio bisogno di prendere fiato perché capisce che questa cosa è rimasta dentro viva come allora, no? Perché tu hai lasciato. Perché non leggi? Sì, ho dovuto aprire. Perché è bello. Leggere degli estratti. Degli estratti. E poi riprende coraggio e dice va bene, io arrivo alla fine di queste lettere, no? E aspetta il mattino arrivando alla conclusione. È un po' una metafora anche insomma di questa signora che dico che mescola i colori alla fine, cos'è che dicevo? Che mescolando con lo sguardo mescolato i colori di fine autunno, lì capisci che la donna è vecchia, no? Perché io la paragono un po' a questa stagione, un po' semifinale. E nello stesso modo richiamo il mattino, cioè dove lei decide che, come dire, conclude queste lettere, ci ha passato tutta la notte, è tutto un po' una metafora, no? Sta arrivando l'alba e lei chiude un cerchio, che poi insomma finirà anche presto la sua vita, insomma non che può durare tanto, insomma. E a me piaceva l'idea che lei prendesse fiato, però, capito, perché era veramente devastata, bagnata, no? dal sudore di queste emozioni che era tanto viva quanto le lettere che aveva in mano. Allora, quando ci siamo visti, Fabrizio mi ha parlato di queste due persone, di questi due protagonisti che sono due amanti, come un classico insomma nei romanzi epistolari che siano. Però lei è l'autrice, quindi queste cose le sa. Però io da lettore ho capito. All'inizio può essere anche una storia d'amore che inizia fra due persone che siano libere. Noi lo capiamo a un certo punto, a pagina 28, quando quando si legge che Lara e Jacopo cercavano di incontrarsi anche prosciugando occasioni comuni, incontri formali come assemblee e conferenze tra persone sconosciute, familiari e conoscenze condivise. Seguendo il flusso della gente, sfiorando corpi estranei, cercavano un posto a sedere che consentisse la visuale l'uno dall'altra, ma ad una distanza che li tutelasse. Classico gioco di no, non possiamo farci vedere in pubblico. È qui che, almeno io ho capito, mi sembra che sia così, in cui si svela la natura, il ruolo nella società di queste due persone. Per i suoi amanti, gli amanti per definizione si nascondono il loro status di amanti e si devono cercarsi dei ritagli di incontri oltre a quelli probabilmente che faranno fisicamente e da soli. Gli spazi, io lo dico, non lo dico, ma lo dico perché io non dico e uno. Però hanno anche dei rapporti carnali, ma dire. Non si dice, non viene non mai detto, dice, no. Non viene mai detto, in realtà la descrizione è talmente, perché se vuoi... Il ricordo diciamo della notte trascorsa con lui, c'è traspare c'è un pezzo che dopo volevo leggere, però quello che volevo sottolineare, amanti è brutto perché erano tutto meno che amanti, perché loro... Non potevano farne a meno, cioè era proprio destino, no? Questo Lacan, questo psicanalista dice che il caso diventa destino nell'amore. E loro è stato un caso e non sono stati capaci, cioè era impossibile, ci sono sbattuti contro e non è possibile dire faccio finta di niente, ok? Era impossibile. Però loro hanno cercato di viverla perché oggi è molto facile disfare le famiglie, dire vabbè insomma io seguo i miei desideri, insomma va. E è molto difficile nascondere tutto, ma non nascondere per paura di essere scoperti, Perché infatti lei alla fine lo dice, nessuno ha mai visto, nessuno ha mai sentito, loro hanno tutelato chi avevano intorno. E questa è anche la grandezza dell'amore, cioè non è perché io ho visto e finalmente ho trovato, io dispo. In realtà c'è stata una grossa tutela su chi non aveva la fortuna di poterlo vivere, capito? E questo è un po' diverso. Però, e quindi rubavano i momenti sapendo solo loro come erano, perché tutelavano questa unicità, capito? Che non poteva essere rubata. Certo che dava meno senso della realtà, cioè sembrava più inesistente, perché lei lo dice, no? Come vorrei che tutti sapessero, perché voglio che sia condivisibile. E quindi soffrivano anche per questo, no? Capito? Come giusto che sia in un rapporto del genere, infatti. In un rapporto vero, però. In un rapporto vero. A un certo punto lei dice, come ho desiderato che fossimo io e te questo mondo e questa vita scelta per noi e per i nostri figli. Come ho desiderato rientrare a casa per scegliere la medesima notte per un sonno comune. Quindi appare, non spesso, questo è uno dei pochi casi, questa, o almeno appare scritta questa voglia di avere in ogni caso una casa comune, un destino comune, un qualcosa che vada al di là del... Posso leggere questo pezzettino? Prego. Dove dicevano che loro si amavano, che hanno avuto più di un incontro, però non ha importanza quanti incontri, era la possibilità di incontrarsi e in un certo modo. E io lo descrivo così, un piccolo spareggetto. L'ansia dell'attesa, coltivata e vissuta fino al momento di vedersi, creava un'aurea gravita di emozioni, trattenute e tenerezze da consegnare. Perché al momento del loro incontro le parole versate nelle mille telefonate si trasformavano in gestualità profonda, complice e confidenziale. I loro corpi diventavano calici traboccanti di amore da dare e consumare, di odori pungenti e mani generose. L'amore era lì e si poteva toccare. Cioè, in realtà tu hai capito che loro si sono amati nel modo più travolgente, no? Ma qualcuno ha detto, quanta passione passionale, ma no, non è vero, cioè la passione era soprattutto una passione mentale, no? Perché non poteva esserci questo trasporto, cioè non ci fosse stato una cosa che coinvolgeva le due persone più profondamente, no? Qualcuno mi ha detto, ma cioè io non posso scrivere una roba che non ha vissuto. Non esisterebbero i narratori. Qui non c'è niente da dire perché in realtà io ho 57 anni e quindi ho avuto delle esperienze fortissime, ho scritto tantissime lettere, ne ho ricevute altrettante e quindi mi sono fatta un'idea dell'amore, capito? Non è importante vissuto o non vissuto, c'è un'idea che è passata e questo è quello che importa, insomma, in realtà. E io ho scritto un libro perché la gente, cioè una mi ha detto, ho finito di leggere, ho pianto 3 giorni, perché io mi sono ritrovata una cosa che ho vissuto e che ho perso, e che ho maledettamente perso, però che ho toccato. Qualcuno mi ha detto, non l'ho mai vissuto, io non ho avuto questa fortuna. Quindi ognuno ci trova qualcosa, e io anche poco così, però anche con... mi dà fastidio, non lo voglio leggere perché mi ricorda troppe cose spiacevoli che non ho più. Cioè, ci sono diverse reazioni. Sì, anche perché si spera, almeno ognuno di noi, a una certa età, aver vissuto un grande amore, reale, platonico, quello che sia, comunque una grande passione, amore, teatro. A volte non è detto che corrisponda al marito o alla moglie, capito? A volte succede. Assolutamente anche no, assolutamente no. Né è detto che questo poi diventi il marito o la moglie. E passiamo adesso ai due personaggi che sono descritti appunto negli intermezzi dei libri fra le lettere dell'uno e dell'altro. Io non ne prendo solo due piccoli stralci perché poi ve li leggerete. Lui, chi è lui? Un uomo risucchiato dentro vecchi ruoli familiari, in una vita orchestrata da chissà quale congegno, di inutili apparenze, di cose non dette, di accomodamenti emotivi e manchevolezze mascherate sempre, fino a quel momento, dentro una vita dall'apparenza sana e bilanciata. Questo è lui. Eh sì. E non facciamo alcun commento. Poi giudicherete voi leggendo come prendere questa descrizione. Lei, di spigliata e singolare intelligenza, Lara, o si difendeva o si abbandonava, così diceva lui di lei. Quindi o si difendeva o si abbandonava. Se nel primo caso ci si scontrava, quando lei si difendeva, nel secondo caso si era travolti dall'abbondanza. Mi corrisponde proprio. Mi viene un po' da ridere. Ecco, sei tu questo. Io sono così. Io, quella che scrive le lettere, sono io. Io sono così. Io sono una che... Cioè, le mezze misure non esistono. No, non è, infatti, cioè, non è facile la mia posizione, insomma, che sono una persona molto impegnativa, però io sono quella che scrive, come dire, scende dal treno e per arrivare al posto di lavoro, in questa enfasi di amore, ti dico tutto quello che incontro e te lo dico, te lo descrivo. Io ho questa verbosità, cioè io descrivo, tu non puoi non capire. E questo è una cosa che mi contraddistingue, cioè io sono abbastanza originale proprio perché dico le cose in modo anche abbastanza colorito. Quindi c'è poca differenza tra me e lei. Io scriverei così e io comunque scrivo così, cioè ovvio che uno scrive un libro e trovi qualcosa di te, cioè non è che mi metto a inventarmi le cose, quindi effettivamente io ci sono tanto lì dentro, quello è il mio vissuto, anche il mio vissuto parallelo, ho vissuto storie così importanti vicini che mi hanno insegnato anche delle cose, no? Però Lara sono tanto io proprio, se devo scrivere anche sul giornale ti faccio tutti i passaggini, per cui uno viene preso perché dici, scrivi quello che gli altri pensano non riescono a scrivere, capito? Cioè dico quello che uno magari non dice perché sembra non importante. Okay, questa cosa ci aiuta veramente a capire bene chi è questa, chi è la lei di questo romanzo, perché i personaggi sono molto ben definiti, pur provenendo dalla stessa penna. Voi direte, vabbè, è facile, uno scrittore normalmente fa dei personaggi diversi. Però attenzione, perché una cosa è fare una commedia con dei personaggi, li si caratterizza, no? C'è il buono, il brutto e il cattivo, e abbiamo fatto un film. Insomma, un duetto non è semplice, soprattutto uomo e donna. E però qui non si confondono i ruoli, qui io vi sfido, se avrete il piacere di leggere questo libro, vi sfido a fare un giochino, a farvi leggere, perché voi leggendo vedete tuo il corsivo è lui e il non corsivo, il regular è lei. Fatemi leggere dei brani da qualcuno e indovinate chi dei due sta parlando dei personaggi. Secondo me ci azzeccate, perché sono dopo aver letto chiaramente un po' di pagine, aver capito, no, chi sono questi due, il loro vissuto e il loro animo, e fate questa ricerca di comprensione del testo. Lui è molto un uomo concreto, dice lei, e volevo sottolinearla questa differenza, quindi non è stato facilissimo, ho dovuto leggermi un sacco di lettere di uomini, capire com'è la mentalità dell'uomo, perché l'uomo non è evanescente, lei non è evanescente. Lei dice le stesse cose, ma in un altro modo. E l'uomo va dritto, cioè non devo fare un giro così per dire la stessa cosa. Ma lei dice delle cose e lui resta proprio abbagliato, perché viene conquistato dalle parole, ma non sono le parole che sviano, sono parole invece che sanno, perché lui dice le tue parole sanno dove andare, sanno colpire. E lui viene, come dire, proprio dentro questa cosa qua, no? Viene preso, insomma, da questa rete. Adesso passiamo all'ultimo punto, di fatto, perché poi non voglio anticiparvi il seguito, perché sono le lettere, ma non è una scansione monocorde o monotono del libro, c'è anche una sua consecutività, e quindi c'è il momento della, fra virgolette, crisi. Alcune telefonate fra Lara e Jacopo avevano risvolti tanto amari quanto dolorosi, e fu proprio in un giorno preciso che tutto sembrò cambiare. La discussione, nata da un'incomprensione, fu violenta e senza sconti, e la distanza presa lunghissima. Quindi, come in ogni storia che si rispetta, a un certo punto c'è una frattura. salto più avanti, dovevano vedersi quel giorno quando Jacopo fu trattenuto per esigenze di lavoro. Sarebbe stato un incontro particolare quello, perché precedeva la sua partenza per un viaggio che avrebbe prolungato l'assenza. Quando Jacopo tornava da uno dei suoi viaggi, sembrava allontanarsi inspiegabilmente da Lana. Inghiottito dal vortice degli eventi, si ritrovava a seguire un flusso necessario alla sua stessa vita, ma senza l'apparente bisogno di confrontarsi con lei. Ecco, questo potrebbe far preludere a un qualcosa, però noi non diciamo a cosa prelude. No, però questo dà l'idea che è un uomo. Volevo metterla dentro questa cosa qua, senza nessun riferimento, però è un uomo. E quindi a volte era fuggivole, quindi preferiva calarsi nel suo silenzio piuttosto che affrontare quello che forse inevitabilmente, insomma, no? Subdorava. Però è un uomo, c'è la componente maschile che lo rende ci sei o non ci sei, quindi lei era sempre in attesa, va bene, so che è così, so anche che è così, quindi io mi faccio da parte, ti scrivo, perché lei scriveva per dire comunque io ci sono, ti scrivo, ti appoggio e ti lascio nel silenzio per riprendere, e questa era una sua fortissima caratteristica che io ho voluto sottolineare, perché comunque è un uomo, io volevo sottolineare, insomma è difficile trovare, insomma sono due generi diversi, maschio e femmine, quindi hanno anche nell'amarsi hanno modalità che li contraddistinguono, no? Insomma io a questa cosa ci credo, se no non potrebbero, insomma, è la natura delle cose, è la natura delle cose, e ogni tanto lui, anche se magari cercava di frenarlo, questa cosa era fuggevole, e lei comunque capiva e lasciava che lui tornasse, no? Ecco, non dico altro, noi non diciamo altro perché siamo arrivati a questa, a questo finale a sorpresa, che come, tutto, come tutti i romanzi che si rispettino a un finale, se no, se fosse già scritto, ecco, non saremmo non saremmo qui. E io lascio la parola a te per concludere. Io vi dico solo, per chi ama il genere del, perché leggere questo libro? Per chi ama il genere, innanzitutto, per chi ama una storia d'amore, ma non quella classica, ma una storia intensa e mentale, cerebrale alle volte, ma comunque piena, distillata, appunto. E per chi ama leggere un libro scritto bene, che già questo è un motivo valido per leggere qualcosa, ecco, non dover stare lì a dire oddio, ma con che coraggio si va a stampare un prodotto editoriale del genere. Ecco, questo è un libro scritto bene, poi bello, ripeto, il bello è una questione di sensazioni, di emozioni, di vissuti personali, e non può convincere nessuno, un'altra persona, a dire questa cosa è bella o non lo è. L'estetica è un altro campo. Però è un libro interessante, scritto bene, e non banale, questo può aiutare a capire meglio il genere. Ma per i motivi che abbiamo anche detto, cioè è lungo. Abbiamo ricevuto tutti, sì. Francamente non saprei più cosa dire. Fabrizio, lascio a te. Io ringrazio intanto le persone che sono venute, preziosissime. Io ovviamente vi invito a leggerlo, perché sarebbe assurdo, insomma, dire il contrario. Il mio intento era suscitare delle emozioni, cioè risvegliare o potenziare qualcosa. Voglio che dica qualcosa, che riporti qualcosa, e questo è il mio intento fondamentale. Parlo d'amore, secondo me, io ho un'idea forte dell'amore, secondo me io l'ho sviscerato sul libro, e secondo me corrisponde a quello che uno pensa, che vorrebbe, che ha vissuto, non lo so, ognuno ci mette il proprio vissuto personale. E insomma, se avete voglia di leggerlo, io e magari buona dare, lettura. Magari darvi riscontri, questo è quell'autore, come ho fatto io, che sia in privato ma anche stasera ho espresso quella che è la mia opinione su quanto ho letto. Penso che l'autrice faccia anche piacere sapere qual è il messaggio che è passato rispetto a quello che volevi mandare, qual è il feedback, cosa ha suscitato in chi legge. Allora, intanto io do un concetto dell'amore totalizzante, sì, ma non per questo distruttivo. Oggi, ripeto, spesso ci si sposa e poi si cambia strada molto velocemente. Questa non è un'idea così, c'è una conclusione che ti dà un'idea di un amore forte, che proprio perché è forte prende delle decisioni forse inaspettate, insomma, no? Non così semplicistiche, così veloci. E io penso di non aver nient'altro da dire, insomma, il libro c'è, lo pagate un po' di meno, lo faccio pagare un po' di meno se volete, insomma, è lì, mi sembra giusto, insomma, se vi va, io spero, insomma, che il libro vi piaccia, se desiderate prenderlo dopo. Il fatto di essere letta mi fa molto piacere. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, buona serata.